Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Mebius. In viaggio nel mondo senza fine della scienza con Federico Pedrocchi. Ci sono i videogame e poi ci sono i serious game. Sono la stessa cosa? No, non lo sono, ne parliamo fra poco. Benvenuti a Mebius, adesso sentiamo i titoli e poi iniziamo. Come imparare a fare il cameriere quando in un ristorante ci sono clienti arrabbiati? O come fare il chirurgo operando subito dopo una catastrofe? È l'obiettivo dei Serious Game. Per questa settimana la domanda impossibile ci arriva da due VIP dello spettacolo che hanno problemi con le montagne. A Trento si cercherà di capire se le attività finanziarie ed economiche hanno bisogno di nuove regole. Ai primi di giugno si tiene la sesta edizione del Festival dell'Economia. Noah, il robot che va sul palcoscenico e fa l'attore. Al momento è in tournée in Germania. Agile e Fermi sono i nomi di due satelliti italiani che stanno dando grandi risultati. Uno dei due è anche entrato nelle liste nere di Wikileaks come possibile causa di una crisi diplomatica internazionale. È qui con noi questa sera, buonasera, Valeria Baudo. Buonasera a tutti. Valeria Baudo del centro METID del Politecnico di Milano. Esattamente. Centro un po' curioso perché fate cose di informatica a 360 gradi, però con una composizione del gruppo di lavoro che è non tipicamente quella dei gruppi informatici, ma avete dentro psicologi, letterati, filosofi. Io sono un umanista puro, diciamo, quindi è il bello di essere METID. E si capirà subito dall'argomento che stiamo per trattare con Alberto Agliotti. Ciao Alberto. Ciao Federico, buonasera a tutti. Qui della redazione di Mebius abbiamo seguito questo appuntamento che è praticamente appena finito qua a Milano, dedicato appunto ai Serious Game. Invece di descrivere in generale che cosa sono i Serious Game, Alberto, possiamo incominciare da? Possiamo incominciare dalla storia di un bambino cicciottello, un bimbo obeso. Esattamente, è proprio una storia che ci è capitata nel corso di questo evento. All'evento, questa conferenza legata al progetto europeo Ludus, era legata una competizione per ricevere dei Serious Game, sia prototipi funzionanti, sia giochi perfettamente funzionanti, ma sia anche idee e storie. E quella di cui parliamo è appunto un'idea e una storia. È legata a un tema molto sensibile. Quello del esattamente dell'educazione alimentare, soprattutto nei più giovani. È l'idea di questo bimbetto cicciottello che deve imparare a perdere peso e lo fa nella sua vita di tutti i giorni. Quindi gioca attuando le interazioni che attua normalmente, ha con una serie di regole che sono quelle che tu devi mangiare 3-5 volte al giorno e poi puoi scegliere di fare una serie di attività. Per esempio, portare a spasso il cane, che è un'attività che ti fa consumare calorie, camminare. Oppure ingozzarti di cibo e scoprire quale cibo ti porta tante calorie e quale cibo te ne porta di meno. E poi hai un'interazione, per esempio, con un nutrizionista che ti spiega quali sono i vantaggi e gli svantaggi del tuo stile di vita. È un gioco che appunto ci è stato presentato in questa competizione, che noi abbiamo valutato positivamente, è stato premiato, perché ci sembrava che nello spirito perfetto dei Serious Game impattasse veramente sui problemi della vita reale, dando un'educazione, è un classico tema da educazione alimentare. L'idea del ludus dei Serious Game è quella di apprendere giocando, e questo perché era. Qui che gioca è il bambino obeso. Esatto, sì, anche non obeso, che imparerà o che potrebbe diventarlo. Ecco Alberto, io non li ho visti, tu li hai visti, non sono dei videogame semplicini, sono molto articolati, densi, c'è dietro un grosso lavoro. Sono piuttosto articolati e c'è dietro un lavoro anche di grafica che, per quanto semplice, è comunque molto realistica, è quasi un'opera d'arte in certi casi. Ma non è che si gioca per una mezz'oretta. Una delle cose che valutiamo è la complessità anche del gioco. Si possono giocare anche per ore, ci sono dei giochi che durano molto. Uno dei giochi più interessanti che mi vengono in mente su questo aspetto è Façade. Façade è un gioco molto particolare perché è quasi un gioco psicologico. Si tratta di una coppia di trentenni. L'ambientazione è appunto un appartamento, sembra un po' gli appartamenti newyorkesi, visto che Alberto li ha visti, si entra in casa di questa coppia, come può capitare nella vita comune. Fermati, perché suona un campanello e chi è che arriva? Andrew! Ah, I'm so happy you could make it. We haven't seen you in so long. How's it going, man? quello che entra in casa è Andrew, quindi chi gioca è Andrew. E che cos'è, uno psicoterapeuta? Sì, l'idea è quella di supporto agli psicologi nelle dinamiche, per esempio, di gestione della coppia. Non è necessariamente da giocare solo come psicologi, io ci ho giocato, l'ho trovato molto divertente e particolare. Abbiamo sentito alla fine, c'era un piccolo pezzettino, era proprio la digitazione su tastiera, perché è un gioco molto complesso, perché è uno dei giochi che ha un parlato. Quindi l'interazione della coppia, lei e lui, avviene attraverso il parlato, però l'interazione con l'utente finale avviene tastiera, per evidenti motivi anche di un certo tipo informatico. E insomma, la coppia effettivamente presenta qualche problema. Sì. You maniac, you sex maniac, never afraid to push our little buttons. Andrew, it's time that Tripp finally just admits that our marriage Stop it. Stanno litigando, sì, e uno dice all'altro di non parlare, parlano di sesso, insomma. Quindi il Andrew, che è il terapeuta, insomma, quello che deve interagire con loro dando consigli, si trova in situazioni pesanti, insomma, che deve riuscire a imparare a gestire. È una situazione che peraltro può capitare anche nella vita di qualcuno di noi, di trovarsi invitato a cena e finire in mezzo a una crisi familiare. Io ci ho giocato e devo dirle che dopo il primo impatto, in cui mi sono divertita come in tutti i giochi a fare le cose più stupide, quindi tipicamente ci ho provato col marito per vedere le reazioni di lei, poi ho cercato di sanare questo conflitto di coppia che è insito nel gioco, ed è stato difficilissimo, io non ce l'ho fatta. Difatti io non sono il target ideale. È molto interessante perché è uno dei giochi in cui sembra veramente che la macchina ti parli. Invece adesso parliamo un attimo di infermieri. Ecco, infermieri è un altro gioco per il quale ci ricolleghiamo sempre alla competition. La professione sanitaria è una professione che ha un forte carico e uno stress emotivo. Questo gioco vuole essere un aiuto nella gestione della vita quotidiana di un infermiere. Praticamente ci troviamo di fronte a delle scelte. L'infermiere entra nella sua giornata lavorativa e decide che ha da visitare dei pazienti, uno molto bravo e uno che sappiamo essere già rognoso. Cosa può fare? E ti si presentano tre scelte. Posso andare prima da quello bravo, posso andare prima da quello rognoso, posso chiamare qualcuno che vada da rognoso al posto mio, e così via. Si struttura la giornata attraverso una serie di scelte. Questo è interessante, ma la cosa che noi abbiamo trovato interessante e per il quale vi parliamo di questo gioco è soprattutto la parte dopo. Tu concludi il gioco e hai il feedback. La reazione dei pazienti. Del paziente, dici, rispetto a quello che tu hai fatto, il paziente l'ha vissuto così. E questo noi lo riteniamo molto importante. Grazie Valeria Baudo. Grazie a voi e buonasera a tutti. Per chi volesse saperne di più, c'è un sito internet che è www.ludus-project.eu. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Pronti con i cellulari, perché siamo arrivati, come ogni puntata, al nostro quiz. Con lo Space Shuttle, che è andato verso la stazione spaziale la scorsa settimana portando quel marchingegno per scovare antimateria nato da tanta ricerca industria italiana, ne abbiamo parlato la scorsa settimana, bene, è arrivato con questa missione, è arrivato sulla stazione spaziale un essere vivente che non è un umano, perché questa non sarebbe una novità, quindi è un animale. Quale? Adesso io ve ne dico tre e voi dovete decidere quale vi funziona. Un calamaro e ci scriverete calamaro, un picchio ci scriverete picchio, un rospo e ci scriverete rospo. Ci scrivete come al solito con l'SMS 349-238-6666. Il libro che si vince è C'è spazio per tutti, il grande racconto della geometria, scritto da Pier Giorgio Di Fredi e edito da Mondadori. In collaborazione con IBS.it. Siamo alla nostra domanda, Chiara, qui sì, con me. Ciao Federico, buonasera a tutti. La nostra domanda, che questa settimana, oltre ad essere impossibile, è anche molto particolare, perché abbiamo approfittato dei VIP che frequentano il Salone del Libro di Torino e appunto che snoccioleremo durante le prossime puntate. Questa settimana abbiamo la domanda formulata da, pensa, Lella Costa e Massimo Cirri di Radio 2. Sentiamola. Una domanda di Lella Costa e Massimo Cirri, molto stimolata da Massimo Cirri, che è uomo che viaggia, che esplora la natura. Però da anni. Ce lo chiediamo con angoscia crescente. No, con angoscia stabile, non crescente. Io sono sempre più inquietato, però va bene. Allora, la domanda è: com'è che in montagna fa più freddo nonostante? E si sia più vicini al sole dovrebbe fare più caldo? È un domandone. Ma forse qualcuno risponde, Pedrocchi, come direbbe Quasimodo. O Pedrocchi o nessuno. Vabbè. E abbiamo allora già Claudio Smiraglia. E certo, abbiamo dovuto chiamare il nostro esperto, il docente di geografia e glaciologia presso la Facoltà di Scienze della Terra dell'Università di Milano. Professore, buonasera. Buonasera a voi. Buonasera Smiraglia. Senta, c'è una prima cosa che volevamo dire. Io è chiara qua, la risposta la sappiamo già, ma ovviamente abbiamo bisogno assolutamente del peso di un esperto. Vediamo se è d'accordo su questa riflessione però. In questa domanda c'è contenuta una differenza che effettivamente esiste tra le persone che hanno un po' in testa il ragionamento scientifico e quelle che non ce l'hanno. Lei, insomma, e Cirri sono... Noi ci eleviamo no, a quelle. No, siamo semplicemente differenti. E cioè, siccome si sale verso il sole, come mai fa più freddo? Lì bisognerebbe ragionare sul fatto che il sole è talmente tanto lontano che quei 2000 metri, se cambia qualcosa, dovrebbe essere uno 0,00000. Sì, sono praticamente una nullità distanza, no? Dal sole. Questo però dovrebbe far pensare che la domanda, diciamo, è un po' mal posta. Però secondo me tanta gente se lo chiede, quindi certo, il professore assolutamente deve sfatare un po' questa curiosità. Ma è d'accordo un po' che c'è questa differenza, no? Tra un modo di ragionare un po' scientifico e invece un altro modo, l'altro. Ma direi sicuramente di sì, comunque non dobbiamo scandalizzarci. Assolutamente molti dei miei studenti hanno lo stesso problema. Ah, lei dice, anche quelli che studiano, non è detto. Certo. Io sono stata studente del professor Smiraglia, lo devo dire. Ecco. Va bene, allora dia lei la risposta completa. Sì, sicuramente è vero, il Sole ha una distanza enorme rispetto alla Terra e, come dire, irraggia nello spazio una enorme quantità di energia di cui sulla Terra arriva una quantità piccolissima. Ma in realtà quello che noi misuriamo sulla superficie terrestre e poi anche sulle montagne non è l'energia che arriva direttamente dal Sole, ma è quella che arriva dalla Terra. Cioè in pratica il Sole irraggia, una piccola parte di questa energia viene catturata per così dire dalla nostra superficie terrestre che a sua volta riemette, con una caratteristica fisica di onde elettromagnetiche completamente diverso. È il famoso, come dire, effetto serra. Nel senso, la Terra rirraggia questa poca energia che riceve dal Sole, questa energia poi in gran parte viene trattenuta dalla nostra atmosfera e rirraggiata sulla Terra. Noi misuriamo questo spessore di atmosfera dove c'è questa interazione energetica, Sole da lontano, ma energia che arriva dalla Terra. Per questo sembra paradossale, perché noi quando saliamo ci avviciniamo alla nostra lampadina che emana calore, ma in realtà ci allontaniamo dalla fonte primaria che è la Terra, per cui c'è questa riduzione abbastanza regolare di temperatura di circa 6 gradi ogni chilometro di altezza man mano che ci si allontana dalla nostra superficie, cioè il motore radiante è la superficie. Ecco, quindi salendo in vetta diciamo che siamo praticamente su un picco e intorno a noi c'è poca terra. Certamente, ma soprattutto siamo lontani dalla fonte primaria di energia e poi siamo in un'atmosfera che è meno densa e quindi sicuramente anche questo ha effetto. C'è anche una diminuzione di pressione, quindi c'è l'aria che... Certamente, di pressione perché la colonna d'aria è molto più densa, più vicino alla terra che non all'alta quota. Quindi salendo noi abbiamo diminuzione di temperatura regolare, 6 gradi ogni chilometro circa, e una riduzione di pressione. Quello che è singolare, no? È che in poco spazio in fondo si gioca tutta la nostra vita, perché... Certamente, questo dovrebbe farci riflettere. Cioè in pratica noi abbiamo a disposizione per la nostra vita uno spessore di aria che è intorno, diciamo, 3-4 mila metri, non di più. Più su sappiamo quanto sia difficile respirare e il problema grosso dovremmo cercare di conservarci questa aria così sottile con le sue caratteristiche chimiche fisiche originarie, non quelle che stiamo trasformando attualmente. Sì, infatti, non pensiamo di colonizzare gli 8.000, ecco, magari. Ecco, no, assolutamente. Ecco. Grazie, professore, prego, speriamo che Lella Costa e tutti gli altri curiosi siano soddisfatti. Grazie davvero. Arrivederci, buonasera. A Trento, dal 2 al 5 giugno, si discute di possibili regolamentazioni dell'economia e il tema, la scelta editoriale pensata e coraggiosa della sesta edizione del Festival dell'Economia, appuntamento annuale organizzato dalla casa editrice La Terza. Scelta coraggiosa perché il tema è di quelli che aprono grandi dibattiti: da una parte le tesi che guardano al mercato come un territorio che è pericoloso, recintale, e dall'altra le opinioni diffuse anche di autorevoli economisti, le quali soprattutto dopo anni come questi che stiamo vivendo dicono che non è pensabile, per esempio, che delle manovre finanziarie possano minare la stabilità di interi stati. Il Festival di Trento chiama esponenti di varie discipline, economisti, storici, sociologi, scienziati, a pronunciarsi su questo scenario, con tanti seminari, non quindi un appuntamento con relazioni precotte che vanno bene per ogni convegno, ma una proposta editoriale precisa. Bene, a Tito Boeri, economista molto impegnato in questi ultimi anni ad analizzare il rapporto fra economia e politica, ma anche responsabile del Comitato Scientifico del Festival di Trento, ho fatto una domanda specifica. Se si parla di scienze economiche, allora da una scienza ci si aspetterebbe un grado di prevedibilità degli eventi e di gestione degli eventi stessi un po' più efficiente di quanto sia accaduto con i terremoti che abbiamo visto dal 2008 ad oggi. Credo che l'economia non sia una scienza esatta, e quindi una hard science in cui si possano formulare delle leggi di valenza universale. Siamo di fronte a fenomeni estremamente complessi in cui entrano in gioco fattori che sono molto difficilmente prevedibili, per cui noi possiamo utilizzare dei modelli che semplificano per forza di cose la realtà per capire le interazioni più rilevanti, i meccanismi. Credo che non ci possa venire richiesto di prevedere eventi come crisi di questo spessore. Quello che gli economisti possono fare è capire quando ci sono delle criticità e denunciare delle criticità. Questo è successo troppo poco, lo ammetto. Dopodiché non si tratta appunto di indovinare che prima o poi ci sarà una recessione, quanto semmai di capire quali sono i meccanismi che sono alla base. Inevitabilmente gli economisti continueranno a lavorare molto guardando al passato e imparando dal passato lezioni per il presente, però questo ci dice che davvero le capacità previsive sono molto ridotte, non riusciamo a capire probabilmente quello che succede nei prossimi mesi, ma è molto difficile fare previsioni a lunga gittata, ripeto, in virtù della complessità dei fenomeni che stanno a noi di fronte. Ma siccome al centro di tutto il festival c'è in che modo si può regolamentare diversamente anche un'economia, se è il caso di farlo, si potrebbe dire che forse potrebbe essere più esatta l'economia, la scienza economica, se ci fosse una regolamentazione diversa? Le regole possono servire per governare meglio certi fenomeni, evitare certi eccessi. Però purtroppo, come abbiamo visto in molti casi, anche le autorità che dovrebbero applicare queste regole, noi economisti siamo molto attenti a questi aspetti, a differenza magari di altre discipline, per cui anche se dovessimo avere delle regole molto ben definite, poi l'azione degli attori economici e le stesse autorità che dovrebbero regolare e monitorare poi può andare in direzioni inaspettate. Insomma, una delle grandi lezioni della crisi è che molte autorità di regolamentazione sono state catturate dalle istituzioni, dalle aziende, dalle banche che avrebbero dovuto regolare. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. On my first 3 days of life, I used to see and hear. Ma Chiara, questa è una vocina femminile. È una vocina femminile, come avrei capito, di una ragazzina. E io avevo detto un robot, che si tende sempre a pensare al maschile, invece questo è un robot. Allora, non hai proprio sbagliato. No? È un robottino femmina, perché appunto la voce è data da questa ragazzina delle scuole medie. Hai sentito anche l'inglese, non proprio perfettissimo, la fluency sì. Non è il massimo. Però insomma è una ragazza delle medie che ha prestato la sua voce ad un robot. Che un è su un palcoscenico. A tutti gli effetti, sì. È su un palcoscenico, è un robot teatrante e sta eseguendo un monologo, non un monologo qualsiasi, un monologo che si chiama iRobot ed è stato scritto dai fratelli Binder, che sembra abbia ispirato anche Asimov, quindi cioè, non è proprio una cosa banale. E diciamo che il robot è un robot a tutti gli effetti, perché deriva dalla scuola Sant'Anna di Pisa e questo fa parte di un progetto più ampio di cui adesso ci parlerà la nostra esperta, perché la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa porta la robotica nelle scuole a tutte le età, dalle elementari, ovviamente cercando di semplificare la materia, alle medie fino alle superiori, e questo era una rappresentazione per i ragazzi delle scuole medie. Ed è qui con noi questa sera Enza Spadoni, che è la responsabile del trasferimento tecnologico dell'Istituto di Biorobotica, appunto del Sant'Anna di Pisa, che è qui con noi questa sera. Buonasera Spadoni. Buonasera. Allora, perché portare i robot nelle scuole e poi anche su un palcoscenico? Ma innanzitutto noi ci occupiamo di robotica perché crediamo nel valore fondamentale che questa materia possa avere nell'ambito dello sviluppo scientifico e tecnologico. Però non ce ne occupiamo soltanto da un punto di vista della ricerca, crediamo che possa essere un validissimo strumento anche per contribuire alla formazione di quelli riteniamo i futuri innovatori del nostro paese. Noi ci riteniamo non solo una comunità che svolge attività di ricerca di frontiera e di eccellenza, ma anche una comunità educante alla ricerca, all'innovazione e alla cultura scientifica. E quindi ovviamente le scuole sono il primo bacino d'utenza fondamentale per... Si inizia proprio da lì, certo, sin dalle prime fasi dell'educazione e della formazione dei giovani. La robotica, peraltro, oltre che orientare nella direzione dello sviluppo scientifico e tecnologico, può essere un eccezionale strumento di formazione proprio perché si basa sull'esperienzialità, sulla laboratorialità, quindi sul lavoro di gruppo. Aiuta i ragazzi a sviluppare competenze nuove, a sviluppare nuove idee. E il caso del robot teatrante è stata proprio un'idea dei ragazzi. Noi centriamo veramente poco, abbiamo messo a disposizione gli strumenti, ma poi sono stati loro a ideare e progettare questo spettacolo. Ecco, bellissimo. Ci dica qualcosa di più di questo robot teatrante che si chiama Noah, se non sbaglio. Sì, si chiama Noah. I nostri ricercatori che hanno fatto da tutor all'interno dei laboratori didattici sulla robotica nelle scuole, quest'anno abbiamo avviato questa iniziativa in via sperimentale, in via pilota in Valvera, che è un insieme di comuni in provincia di Pisa che hanno stabilito un patto di comunità educante firmato da imprese, istituzioni e università proprio per introdurre anche la robotica all'interno delle scuole. Ciascuna classe ha poi realizzato un lavoro finale e in particolare questa di Capannoli ha deciso di programmare il robot Now, riprogrammarlo proprio per associare la voce ai movimenti, e quindi a quel punto il teatro ci stava anche bene, sviluppando peraltro in modo molto divertente e innovativo anche queste tematiche di interazione uomo-robot cui i ragazzi per la prima volta si approcciano. Se non erro è abbastanza bravo, tanto da essere andato addirittura in tournée in Germania in questo momento. Sì, esattamente, a Bocholt, perché fa parte di un progetto europeo che ha messo insieme 5 scuole provenienti da varie parti d'Europa che hanno sviluppato appunto un progetto di ricerca che riguarda anche la robotica. Adesso dobbiamo riuscire a descrivere che cosa combina questo robottino, robottina, adesso chiediamo, ha una voce di femmina, però vediamo insomma, che cosa combina sul palco e come recita. Per descrivere questo abbiamo con noi questa sera Giada Bulgarella. Buonasera Bulgarella. Buonasera a voi. Anche lei dell'Istituto di Biorobotica. Allora, che cosa combina? Intanto maschio o femmina? Noi abbiamo sentito una voce un po' femminile. In realtà realtà è un maschietto, è stata data la voce femminile perché nel racconto dei fratelli Binder è un bambino, è un robottino molto giovane. Molto giovane, e quindi. Per questo okay. è stata associata una voce femminile. Va bene, allora com'è la situazione? Io sono proprio curiosa di sapere che come interagisce questo robottino sul palco insieme ai ragazzi. Com'è fatto? Un robottino umanoide con le braccia, le gambe? Sì, esattamente, è umanoide, quindi nel vero senso della parola non ha effettivamente fattezze umane, quindi un viso, una pelle di un umano, però ha gambe, braccia, testa, corpo, strutture. E infatti grazie a questa struttura così mobile è stato possibile attraverso una programmazione dare del pathos ai movimenti associati ovviamente al racconto e alla voce della ragazza della terza media della scuola di Capannoli. Quindi si muove sul palco? Sì, si muove esattamente, si muove proprio perché come un monologo mi sembra un po' ardito nel dire shakespeariano, ma diciamo c'è stato un grande pathos perché è un racconto che rappresenta lo scontro, incontro tra un robot e il genere umano, in quanto questo protagonista Adam Link, il robottino appunto del racconto, non riuscendo a relazionarsi bene con gli esseri umani, piuttosto che far loro del male, decide di togliersi l'etile, quindi di togliersi la vita. Tutto questo è stato possibile grazie alla programmazione dei movimenti donata dai nostri ricercatori e alla voce dei ragazzi, della ragazza della scuola media di Capannoli. È stato possibile dare un'umanità al robot, anche se forse è un po' ardito arrivare a dir tanto, però grazie ai movimenti, quindi alle componenti tecniche del robot e alla programmazione, si è dato del pathos al racconto per esprimere effettivamente questo disagio o questa tristezza del racconto stesso. Ma alla fine allora il robottino si toglie proprio le pile, cioè si annulla. È simulata, è una cosa simulata, il robottino avvicina la mano al cuore che poi è un LED luminoso che rimane luminoso per tutta il monologo e avvicinando la mano a questo LED luminoso è come se simulasse il distacco delle pile e dopodiché si accascia al suolo proprio simulando anche una posizione morente. Però a Bulgarella ci sarà il sequel in cui qualcuno gli rimette le pile, ce lo dica. Sì, quello sì, perché rappresenta il primo di una lunga serie di racconti dei fratelli Binder, di un'antologia in cui poi appunto qualcuno ridarà la vita al robottino e poi ci saranno le diverse avventure di Adam Link, di questo robottino e della sua relazione con gli esseri umani. Finisce bene, insomma. Noi allora aspettiamo magari i video, li mettiamo sul sito per chi fosse curioso di vederlo in scena. Grazie Bulgarella. Ben volentieri. Grazie, buon lavoro. Buonasera. Arrivederci. Eccoti ancora qua, Chiara, per parlare di cinema e ambiente. Sì, direi cinema ambiente scritto tutto attaccato. Tutto attaccato. Sì. È la manifestazione che si terrà tra un paio di giorni a Torino, è giunta la 14ª edizione, già questa mi sembra un'ottima notizia. Record. Ecco, appunto, partirà il 31 maggio e finirà la domenica successiva, quindi il 5 giugno 2011. Qui con noi stasera abbiamo il direttore che ci racconta insomma le novità di questa edizione. Eccolo qua. Gaetano Capizzi, buonasera. Buonasera. Buonasera a tutti. Ecco, direttore, ci racconti quali sono le novità di questa 14ª edizione, che già questa è un'ottima notizia, insomma, diciamocelo, per questi temi scottanti. Siamo diventati teenager. È un festival ormai tradizionale su queste tematiche ambientali. Devo dire che è durato perché c'è stato questo fenomeno della crescita del numero di film sull'ambiente. Ecco, noi ne dicevamo tantissimi e abbiamo scelto i migliori dell'anno. Le novità, come tutti gli anni, insomma, ci sono, perché c'è la continuità, perché ormai è una formula che funziona e replichiamo, ma ci sono tante cose nuove, dalle location, dai film d'apertura. Wasteland, che è un film molto bello, è stato premiato il premio del pubblico al Sundance Film Festival, è stato candidato all'Oscar. Abbiamo delle giurie prestigiose, il presidente della giuria è Michael Cimino, il regista del Il Cacciatore. Certo, Nella sera finale ci sarà un film di fiction interpretato, un'anteprima italiana, da Gael García Bernal, che è il Che Guevara dei diari della motocicletta, per intenderci. Certo. Per cui un grande cinema quest'anno. Ecco, i temi sono sempre ambiente, come purtroppo le brutte notizie che sentiamo tutti i giorni, o c'è anche qualche ventata di ottimismo? Ma il cinema sull'ambiente quest'anno è molto maturato, sono dei film d'autore, no? Per cui noi puntiamo molto alla qualità cinematografica e devo dire che sono tutti film che cercano di arrivare al grande pubblico. di comunicare le cose positive quando queste non ci sono, di denunciare, però denunciare dando delle indicazioni su cosa si può fare per migliorare la situazione, perché questi film esce dal cinema essendo cosciente di un problema e avendo anche gli strumenti per agire sulla realtà, per inquinare di meno, ridurre la tua impronta ecologica. Sono film, devo dire, veramente per il grande pubblico, per i bambini, per le famiglie, per cui c'è tutti i gusti. Film italiani come siamo messi? Il cinema italiano... Sappiamo che poverino è un po' claudicante in questo periodo, però insomma, per l'ambiente magari è diverso. C'era una volta un film che parlava del cinema italiano e si trovava, sembra morto ma è solo ferito. Comunque c'è un'attenzione dei registi italiani verso i temi ambientali che cresce di anno in anno. Quest'anno c'è una bella selezione di documentari italiani, di corti, lunghi. Avremo l'anteprima nazionale di un film che si chiama Polvere, sul problema dell'amianto, sul processo dell'amianto alla Eternet che c'è a Torino, che è un processo internazionale. Dei film che parlano del ritorno alla natura, un film molto divertente che è un viaggio da Torino a Venezia su una canoa gonfiabile e una bicicletta, che ha realizzato un regista che voleva andare al Festival di Venezia, sono andato in questo modo, incontrando tutti i personaggi che vivono sul Po. Ci sono film sulla devastazione un po' dell'Italia, no? Un po' di petrolio che parla del caso del petrolio riversato nel Lambro, all'inizio dell'anno, sì. Sì, temi ne abbiamo, in effetti. E, senta, per chi volesse leggersi il programma e decidere quale film vedere, dove possiamo trovare tutto il dettaglio? Tutto quanto sul nostro sito internet, ovviamente, che è www.cinemaambiente, tutto attaccato con una sola A.it. Perfetto. L'ingresso, le proiezioni è gratuito per tutti i film. Bene. Questa è una buona notizia. Ci vediamo a Torino allora, grazie direttore. Grazie a voi, arrivederci. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Siamo alla soluzione del quiz. Lo Space Shuttle ha portato sulla stazione spaziale la scorsa settimana un animale. Qual era? Calamaro, picchio, rospo, è un calamaro. Per quale scopo? L'idea è di testare come nelle condizioni di microgravità orbitali i batteri moltiplicano la loro diffusione. Si sa già che questo fenomeno avviene, ma è ancora poco studiato. Eccoci qua allora, c'è un calamaro della specie Euprima scolopes che già convive con batteri stabilmente, anzi li usa per produrre una certa luce che nelle profondità marine può essere utile. Quindi il calamaro è andato in orbita ed è un esemplare appena nato, piccolo, il che significa che non è ancora stato colonizzato dai batteri, però i batteri, gli astronauti ce li hanno. Dopo un paio di giorni li hanno immessi nel contenitore dove si trova il calamaro, cioè pieno d'acqua, e quindi la colonizzazione è avvenuta. A terra si misurerà se questa colonizzazione sarà stata più intensa. Purtroppo ciò richiede l'uccisione del calamaro. Che genere di batteri si tratta? Vibrio fischeri, eccola qui. Se dico Fermi, vi verrà in mente Enrico Fermi, giusto. Se dico agile, qui è un po' più difficile. Fermi e agile sono due macchine celesti, volano in alto e scrutano l'universo. Ve ne parla Barbara Gallavotti. Agli inizi del Novecento i futuristi volevano uccidere il chiaro di luna e probabilmente non apprezzavano neppure il cielo stellato, che era un altro dei classici, dei luoghi comuni di tutti i poeti di tutti i tempi. Forse gli sarebbe piaciuto il cielo a raggi gamma, se avessero mai potuto immaginarne l'esistenza. Una sorta di torcia immensa con uno splendore accecante. Perché in realtà, anche se i futuristi non lo potevano sapere, il cielo che vediamo sopra di noi è solo quello che ci permette di cogliere la nostra vista, che è sensibile a un limitato spettro di radiazione luminosa. In realtà però l'universo brilla di moltissime altre luci che a noi sfuggono, ma non a occhi di strumenti come il satellite Fermi, al quale è stato recentemente dedicato un simposio a Roma. Fra gli intervenuti Giovanni Bignami, una delle stelle dell'astrofisica italiana. Buonasera. Buonasera. Allora, per cominciare, ci presenta il satellite Fermi? Certo, tanto si chiama Fermi, non a caso, perché Fermi è proprio quello che ha indirettamente iniziato l'astrofisica delle alte energie. Quella in raggi gamma è una enorme macchina costruita, messa in orbita dalla NASA, ma dico subito con un cuore italiano, fatto dall'Agenzia Spaziale Italiana, dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, dall'Istituto Nazionale di Astrofisica. È una macchina stupenda che ci fa vedere che il bello dell'universo in realtà, come dicevi tu prima, è in raggi gamma. È affascinante vedere come certi oggetti celesti emettono una enorme quantità di questa radiazione. Per fortuna non arriva a Terra, questi 30 km di gas ci assicurano la sopravvivenza. Però è importante studiarle, perché è importante? È importante perché sono quelli lì che ci dicono davvero come nascono e muoiono le stelle, che hanno un loro ciclo di vita come quello del Sole, durante il quale emettono la luce che ci illumina e che ci abbronza. Però alla nascita e alla morte tutto avviene con uno sbuffo, con un soffio di raggi gamma. E da quello impariamo perché le stelle stanno accese, nascono, vivono e muoiono. Proprio al simposio di Roma voi avete annunciato un'osservazione di raggi gamma connessa alla nebulosa del Granchio. Ce la racconta? È una storia affascinante. Questa è una stella giusto appunto che è esplosa nel 1054. Ne sappiamo la data con precisione perché i colleghi cinesi, penso un po', avevano fatto una carta del cielo in bambù che ci ha permesso di posizionarla. L'abbiamo osservata in raggi gamma, io modestamente sono stato tra quelli che l'hanno scoperta addirittura nel 1974 e da allora era un faro nel cielo sempre stabile. Di colmo, sia il satellite Fermi sia il satellite italiano Agile qualche settimana fa hanno cominciato a vederla variare in modo folle, pazzesco. Ci dimostra che il cielo è sempre pieno di sorprese. Ecco, Agile è una sorta di fratellino di Fermi, tutto italiano, e è un fratellino che è balzato addirittura alle cronache di Wikileaks. Sì, una storia divertentissima. Io allora ero appena diventato presidente dell'ASI e naturalmente avevo subito insistito perché questo satellite venisse lanciato, era già in ritardo di molti anni, io l'avevo concepito anni prima, costruito dalla solita collaborazione di ASI, INAF e INFN, ma gli americani per qualche ragione strana si opponevano al loro lancio che avveniva dall'India. Per fortuna non li abbiamo ascoltati, l'abbiamo messo in orbita, è in orbita felicemente oramai da 4 anni e funziona alla grande, il fratellino minore di Fermi. E allora l'ambasciatore allora americano qui a Roma aveva scritto tutta una serie di rapporti su questa storia, indicandomi come il colpevole, cioè è andato su Wikileaks, la storia affascinante. Avete rischiato un incidente diplomatico, insomma. Abbiamo rischiato un incidente diplomatico, però per fortuna avevamo ragione, allora è facile rischiare gli incidenti diplomatici. Peraltro probabilmente Agile è l'unico esperimento scientifico nella storia a essere finito su Wikileaks. Credo anch'io, è stato il primo piccolo satellite scientifico tutto italiano, dopo la grande missione Beppo Sachs, e una forte paura che sarà l'ultimo, purtroppo. Come convivono due esperimenti come Agile e Fermi? In fondo sono due esperimenti che guardano più o meno le stesse cose, perché c'è bisogno di due? Naturalmente aveva un senso fare Agile, che è partito prima e ha fatto tutta una serie di scoperte prima di Fermi, cioè, battere la NASA, tutto sommato, è una cosa soddisfacente. Non è una roba da poco. Adesso conviviamo molto felicemente perché per fortuna sono due missioni molto complementari, coprono due intervalli di energia un pochettino diversi e soprattutto si confermano i risultati a vicenda. E gli americani sono molto felici di avere Agile come conferma dei risultati e come aiuto a scoprire il cielo. Ma un'ultima domanda, proprio a proposito di questo fatto, dell'importanza delle missioni di questo tipo nello spazio. I raggi gamma, ad esempio, sono spesso associati a particelle cariche accelerate ad altissime energie, in situazioni in cui l'universo funziona come un grande acceleratore di particelle, qualcosa di molto più immenso di LHC, che è pure il più grande acceleratore di particelle che l'uomo abbia concepito e costruito fino adesso. Ora, qualcuno dice che proprio per questo motivo il futuro della fisica delle particelle non è più qui sulla Terra, dove pure sono state fatte scoperte estremamente interessanti, ma su nel cielo, dove lavorano Agile e Fermi e dove in futuro verranno mandati nuovi esperimenti. Lei che ne pensa? No, attenzione, voglio dire, è vero dire che l'accelerazione delle particelle è la base di tutto ed è per quello che il satellite si chiama Fermi. Fermi è quello che aveva capito, che accelerando i raggi cosmici si possono fare i raggi gamma. Detto questo, però, sono due cose molto diverse. Gli acceleratori sulla Terra hanno la caratteristica di poter, diciamo, concentrare un fascio infinitamente più intenso di quello molto diluito che ci dà l'universo. E quindi si possono studiare con molta più precisione e accuratezza, diciamo, dei fenomeni che con l'accelerazione naturale dell'universo non si possono studiare. Quindi no, è giusto fare gli acceleratori sulla Terra, ma naturalmente è anche giusto andare fuori a studiare quello che ci regala l'universo. Continueremo a avere tutti e due gli strumenti, quindi? Assolutamente sì. Finanziamenti permettendo? No, li facciamo arrivare i finanziamenti. Un giorno o l'altro qualcuno capirà che senza la ricerca fondamentale non si va da nessuna parte. I cinesi e gli indiani ce lo stanno insegnando alla grande, speriamo di capirlo prima che non sia troppo tardi. Grazie Giovanni Bignami, buonasera. Buonasera. Nel 2012 dovrebbe esserci la fine del mondo, sarebbe la centesima volta che una centesima data è stata preannunciata come fine del mondo e non si è visto niente. Ma nel 2025 invece tutti gli esperti di tecnologie militari ci dicono che i primi fanti robotici potrebbero apparire sui campi di battaglia. Naturalmente possiamo sperare che questi campi siano solo quelli delle esercitazioni militari. Speranze illusorie? Probabile. Comunque proseguiamo. Anche dalla nostra trasmissione sarà capitato di sentire che le ricerche in robotica prestano molta attenzione oggi a costruire robot con sembianze umane, soprattutto nei volti. Non è una scelta puramente estetica e giocosa solo per avere qualcosa di più carino e nulla più. No, si pensa a umanoide perché se dobbiamo imparare a lavorare con loro, negli ospedali per esempio, potrebbero svolgere funzioni molto importanti, è del tutto ovvio che una buona empatia deve potersi stabilire fra noi, e questo marchingegno che ci deve dare una mano. Ma la guerra è una faccenda umana? No, è disumana? No, è anche tragicamente umana, e qui sta uno dei suoi tanti aspetti folli. Parlare di robot ci dimostra che la contraddizione davvero esiste. Come dovranno essere, avendo l'obiettivo del 2025, i primi robot militari? Il loro impiego prevede che siano operativi su un campo di battaglia, avendo la possibilità di essere ben protetti dai proiettili, essere in grado di non avere problemi di affaticamento, è ovvio, di non avere paura e anche di muoversi molto più velocemente sul terreno. Tuttavia, eccoci al punto, non si sta pensando a robot autonomi, ovvero a veri e propri soldati meccanici che vadano in battaglia. La robotica non è tanto avanzata e non lo sarà nemmeno nel 2025. Si pensa invece a macchine molto efficienti, capaci di orientarsi bene da sole per certi aspetti, per esempio puntare velocemente un bersaglio, ma che poi siano guidate a distanza da un tutor umano che si trovi abbastanza lontano dal campo di battaglia. E a questo punto, che si sono fatti già degli esperimenti, emerge un dato: se il robot è troppo umano nell'aspetto, chi lo comanda a distanza tende a pensare che se la cavi da solo, molto di più di quanto in realtà possa fare, con il risultato che si perde in efficienza. Se invece sono lontani questi robot da forme umane, ecco che è più facile interpretarli per delle killing machine, dicono i progettisti, ovvero delle macchine da guerra che devono annientare un nemico. Ma si pensa invece ad altri robot militari, quelli che si potrebbero impiegare nel soccorso a feriti e recupero corpi. È un'attività che, come possiamo immaginare, è una delle più dure sul piano psicologico per chi deve esercitarla. Si stanno progettando robot che possono svolgerla con buona efficienza, con un minimo controllo a distanza, e in questo caso, a quanto pare, l'operatore preferisce un aspetto umanoide nel robot che deve guidare. Sembra che se ne ricavi un minore coinvolgimento psicologico. Ecco, robot e guerra. Ogni tanto vediamo notizie di questo genere. Qui a Mebius vanno date, però sono sgradevoli, no? Sì, certo, è così. Mebius questa settimana non ha più niente da raccontarvi, ma solo perché è finito il tempo concessoci, perché le storie di scienza non finiscono mai. Ci sentiamo la prossima settimana, quando fra l'altro parleremo di contenuti scientifici ed ebook, e poi di professori di scienza italiani che andavano in guerra con i loro studenti. Era il 1848 e si stava facendo l'Italia. Buona serata a tutti e a tutte.